Dottore, Graziano, Luca, come? È tuo figlio, sì. Il dannato? Eia, ma non ti sento, come mai? Oh, non ti sento bene. Ah. Giomari, non sono io, non quello che sta rispondendo. Ah, che vuoi farci tu? Bene, sto uscendo lui. Eia. E lui. Ok. Chi era l'altro? Luca Manicù? No. Ah. E beh, cosa stai combinando? Si sente il magazzino. Ho visto che è libero a casa. La macchina perlomeno, l'ho vista lì. Quando sono le 3:30 sono salito. Ah. Ah, lì. Potevo salire all'ospedale adesso. Stai annoiato, gatta. Lui ha dato la macchina a Tore e mi l'ha recato a Giura. Ma se sono passato io alle 3:30, 4:20, 4:15, la macchina era lì, la tua. Ma ormai te l'avevo già detto, capito? Ormai te l'avevo già detto che andavamo domani mattina. E per cui, domani mattina andiamo lì e portiamo le gomme pure, capito? Eia, va bene, fammi sapere l'orario. Eia, bene mera, bene mera. Va. Che ore sono? Sono le? Le 6:10, così è. Oh, Ah. Oi. Una noia, gatto, che gatto. Per carità. Ehi. Vediamo qui cosa fa, ragazzi. Ti ho mandato qualche video di quello che sto mandando a Graziano. Adesso l'hai mandato? No, è già un po'. Ah, perché si è caricato, ve la scarico. Si sta scaricando, è troppo in fretta, deve essere che sta partendo la batteria, che si scarica subito. Oh, allora a cambiarla. Ehi, se continua così me la compro nuova e almeno ho tranquillo, cazzo. Cazzo, ogni giorno bisogna caricarlo. Indu! Tuffo! Ehi, chi se va a appena la moglie dove sei? Ha capito? Dove si appena la moglie, fracchetti, si vede chissimo. Ha detto buffo. Quando non rispondi, allora esce da piso. Tanti si è assoliato oggi lui, no? Peppa! Chi è? Chi sei? Male ti sento, con l'alternata. Eia, ti porti appresso un rumoraccio. Buffo! Eia! Ehi, adesso sei chiasso e forte, bello pulito, dormito a sogno. Eia, Luca non si è sentito. Luca 1 e Luca 2. Chi è che sta soffiando? Avanti! Soffietto! Luca Flipper, ci sei? Luca Maricogna, ci sei? Non ti sento. Mi senti? Adesso sì, ciao Bacchi. Ciao Graziano, buonasera. Non mi senti Graziano? Sì che ti sento a te. Poco fa c'era un altro che buffava, boh. Ah, via. No. Lavorando sto, capito? Ah, ci stai lavorando sull'antenna? Eia. Ci sto lavorando, come mi sto andando a fare? Eia, datti da fare che per ascoltarti ho dovuto coricare la radio. Se la metto dritta non ti copio. Addirittura, dormite vuole. Orizzontale ti sento, se lo metto verticale non ti sento più, sento solo il rumore assordante. Non capisco perché c'è lo stazionario 1.88 e allora cerca di abbassarle un po'. Dai. Continua a graziare, rompo un po' le scatole tra un po'. Intanto l'ho ben chiuso. Ma chi sono? Sta lavorando con l'antenna. Ciao, graziare. Ciao, sei a far bene con l'antenna. Combattendo con l'antenna, Uia, e allora? Avalava, mi ha detto che c'è a pintendi. Comunque orizzontale lo sento bene, se metto la radio verticale non lo sento per niente. Se tu fa ponelo a capo a terra. Sì, se lo metto dritto sul tavolo si porta il rumore e non sento la voce. Se lo metto coricato sul tavolo orizzontale lo sento benissimo. E poi ha detto che c'aveva stazionarie 1.88, mi sembra, una cosa del genere. E vuol dire che c'è qualcosa che non funziona? Strano, vuol dire qualcosa non fa. Di questa maniera lo sento bene. Se è un bongo dritto non lo intendo. Andiamo dove andiamo. Eia. E poi non ho sentito nessun altro. È acceso qua da 2 ore. Tutti venduti si sono. E tu poi di barridori. Ecco, Luca si sta svegliando adesso. Sì, magari. Sono appena rientrato da Olbia. Vedo un po' cosa adesso. Sono partiti alle 3 da qua. E siamo arrivati adesso. A prendere le cose a Olbia ci andà. E allora? E va tu vai, armaco a Udunnaggio. Eia, a Udunnaggio, e beh, Tore. Ciao Luca. Sei andato a Olbia a prendertele. E allora? Poi di chi li ne ho preso? Mi ha da te. La fatica. E tu? Lo so che sei andata a travagliare a Olbia. Gio Maria, senti il dossier. Io non l'ho sentito per niente. Nada di nada. No. Aiuta a vedere. Attenzione Gio Maria. Buffo. Dammi il dossier. E che faccio? Cosa c'è?